Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchessi, oggi è il 2 giugno, Italia in controluce. Oggi appunto 2 giugno abbiamo deciso di raccontare una storia importante, per certi versi straordinaria, è quella di Massimo Ottolenghi, torinese, partigiano di Giustizia e Libertà, una persona anziana che è anche uno scrittore, un intellettuale, che alle lettere pubblica un suo libro che ha un titolo eloquente, Ribellarsi è giusto. Lo ha intervistato per Italia in controluce Paolo Riva. Noi abbiamo avuto il trionfo di contribuire alla Costituzione, di contribuire alla liberazione, di contribuire alla caduta della monarchia e a spazzare molta parte del fascismo, ma non abbiamo raggiunto quelli che erano gli obiettivi ideali completi. Ecco. Abbiamo fallito perché volevamo soprattutto affermare certi valori, ma soprattutto fare un'epurazione sostanziale, un'epurazione etico, sociale e morale, che non voleva dire eliminare solo i fascisti dal punto di vista politico, ma eliminare il malcostume politico, anche per la parte che poteva aver toccato le stesse nostre posizioni. Il suo libro Ribellarsi è giusto è innanzitutto un vigoroso invito. Contro chi o che cosa bisogna ribellarsi oggi in Italia? Nell'Italia oggi bisogna ribellarsi contro la illegalità, la guerra che è scatenata da un governo contro lo Stato, dagli attacchi alla giustizia, dagli attacchi contro la scuola, dagli attacchi contro gli organi di controllo. Ribellarsi da tutto quello che viene attaccato dal governo padronale con una concezione che è rivolta a eliminare tutti gli organi di controllo e a considerare il popolo sovrano come un qualcosa di estratto la cui volontà metafisica giustificherebbe qualsiasi abuso, qualsiasi comportamento al di sopra e contro le leggi. Ma che va contro il governo attuale oppure secondo lei è un problema dell'intera classe politica italiana? Ma esistono i due volti dello stesso problema. Tutti i partiti si sono un po' degenerati in una fascistizzazione, tanto per capirci, tant'è che sono le segreterie che designano i componenti delle liste e della Camera e non sono più frutto di una selezione e di una volontà diretta degli elettori. E questo è una copia malformata e moltiplicata di quello che era la Camera dei fasci delle corporazioni. Quindi la legge elettorale è un'indegnità che ha spogliato dalla volontà e di decisione la nostra popolazione, trasformando i cittadini in sudditi. Nel suo libro cita anche Calamandrei, che parla di sfiducia nella libertà e desiderio di appartarsi, di lasciare la politica ai politicanti. È questo, secondo lei, il principale rischio che corre oggi la società italiana? Il berlusconismo è un po' il risultato di questa abdicazione che è stata fatta da uomini preparati politici, è il frutto di un errato concetto di delegare l'esercizio del potere di rappresentanza. I cittadini si sono abituati a delegare tutto e inavvertitamente hanno perso la libertà di decisione in tutti i settori. Tra l'altro si sono moltiplicati enti parastatali, statali, in cui i cittadini praticamente poi non partecipano, votano per delega, non si interessano. Ma secondo lei questo cambiamento quando è avvenuto? C'è stato un momento preciso oppure è stato un procedimento più lungo? No, è stato un procedimento più lungo dovuto al fatto che le generazioni immediatamente dopo di noi si sono dedicati soprattutto alla ricchezza, al consumismo, alla pancia, trascurando di ricostruire le coscienze, di ricostruire le persone e con che sono nate delle generazioni che nel benessere si sono abbandonate all'indifferenza. A quasi 96 anni scrive che al nostro paese serve un miracoloso soprassalto per togliere il potere dalle mani dei più anziani. Non si sente fuori posto qui in Italia? Non ha mai pensato di lasciare il nostro paese? Appartengo a una generazione della pianificazione della morte e alla desertificazione delle coscienze. Ho vissuto quando la patria mi ha rinnegato e mi sono trovato nella posizione di quelli che, quelle posizioni che sono oggi di certe extracomunitarie che non hanno il permesso. Quando da soggetti si diventa oggetti e si diventa subumani, si prova allora quello che è veramente il problema della libertà, il problema dei diritti, e si soffre di questo. Ora, chi ha vissuto quell'esperienza lì pensa di battersi perché tutto questo non si verifichi mai più, non pensa di abbandonare il paese, io non abbandonerei mai l'Italia, non l'ho abbandonata allora. Lei infatti è di una famiglia di origine ebrea, perché una persona che ha vissuto appunto, come diceva, sulla propria pelle la storia del Novecento parla nel suo libro di una nuova Shoah dei diritti che va scongiurata oggi ancora? Perché la Shoah è, in ebraico vuol dire rovina. Ora noi stiamo vivendo in una fase in Italia di totale distruzione di valori e di diritti, dei diritti soggettivi, e questa che riduce appunto gli uomini da soggetti in oggetti di potere è la fase più orribile. Allora è stata una fase prodromica e strumentale per portare all'uccisione degli ebrei e allo sterminio. Oggi non è questo, però quando si giunge, come si stava giungendo, alla distruzione di diritti soggettivi e al calpestio della Costituzione, alla disuguaglianza, all'illegalità affermata, quando il governo va contro lo Stato, quando il governo attacca la giustizia, quando il governo rifiuta gli organi di controllo, quando il governo vuol confondere il potere esecutivo col legislativo, quando le leggi non sono più affidate al Parlamento, ma il Parlamento è chiamato solo a dire signor sì, e beh, allora siamo in una fase di Shoah, e cioè di rovina dei diritti e dei valori, che è quella che porta sull'orlo del crollo della democrazia e di tutti i valori della democrazia stessa. Com'è stato il suo 2 giugno nel 1946? È stato un giorno di tripudio. D'altra parte il 2 giugno è la data in cui tutti quei valori fondamentali che si volevano far valere con la liberazione si sono affermati, e è la data che segna il momento in cui anche le donne hanno acquistato il diritto di voto, è il momento che porta alla Costituzione, e la Costituzione è più importante del territorio per uno Stato, perché è la dimensione morale, sociale, etica dello Stato stesso. Ci sono dei popoli che, come l'ebraico, che hanno vissuto 2000 anni senza un territorio, ma hanno conservato la legge come cosa sacra, cioè voglio dire che un ordinamento che va sacralizzato per la conservazione di un popolo e una Costituzione vanno rispettate. Come si spiega oggi l'importanza di una ricorrenza come questa a chi non ha vissuto gli anni del fascismo, della guerra, della resistenza e della liberazione? Io ritengo che quest'anno l'anniversario del 2 giugno, che coincide col 150° anno dell'Unità d'Italia, sono particolarmente significativi. Quantomeno a Torino, dove io vivo, hanno evidenziato un ritorno all'amore per la bandiera, alimentato da Ciampi, alimentato da Napolitano, però è un ritorno di desiderio di valori da parte dei cittadini. L'amore per l'inno nazionale e l'entusiasmo che ha suscitato Benigni è significativo, anche questo è un desiderio di ritorno. E non è un ritorno in senso nazionalistico, che sarebbe un male, è un ritorno in senso identitario ed è un senso, di senso di appartenenza, di comunità, cioè l'essere cittadini significa amare e unirsi in questa comunità che è rappresentata da questi simboli. Seconda edizione Italia in Controluce termina qui, siamo su Facebook, Twitter, siamo anche raggiungibili via mail controluceradio24.it.